Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Di Gigi Donelli con Alessandro Schirano, con Paolo Corleone in regia, un saluto a tutti voi. Le notizie europee della settimana sono molte, naturalmente l'avete sentito nel corso dei nostri GR, si è parlato parecchio del coordinamento europeo sul fronte coronavirus. In particolare l'Italia ha chiesto un vertice che c'è stato giovedì, è stata l'occasione, come dire, per allineare le procedure. Poi oggi parleremo in maniera approfondita di intelligenza artificiale, e quando si intende l'intelligenza artificiale riguarda davvero una quantità impressionante, a volte si fa fatica a tenere l'elenco a mente di tecnologie, di ricadute di questo sviluppo tecnologico. Poi parleremo di quello che è il rule of law, cioè in sostanza il rispetto di quel pacchetto di idee e leggi che fanno appunto l'Europa e che per molti la fanno, ma non esattamente per tutti. Prima però oggi una nota economica che ci arriva dal nostro collega Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, proprio sulla crescita economica. Purtroppo le cose non vanno particolarmente bene, ma lo sapevamo. Sentiamo. È una congiuntura fragile quella descritta qui a Bruxelles dal commissario agli affari monetari Paolo Gentiloni. Secondo le ultime stime della Commissione europea, l'economia della zona euro crescerà dell'1,4% nel 2020 e nel 2021. L'Italia è in una situazione peggiore. L'esecutivo comunitario prevede che l'economia quest'anno cresca di appena lo 0,3%, confermando che il paese rimane un drammatico caso a sé nell'unione monetaria. La Germania, che veniva associata all'Italia nei mesi scorsi per via di un forte rallentamento, è in una situazione migliore. La crescita tedesca dovrebbe essere dell'1,1% quest'anno. In una conferenza stampa qui a Bruxelles, il commissario Gentiloni ha spiegato che l'epidemia influenzale che sta colpendo la Cina è un rischio per l'economia europea, probabilmente il maggior rischio, ma che è ancora troppo presto per fare delle previsioni sul suo impatto. Dipenderà da quanto durerà, ha detto l'ex presidente del Consiglio italiano. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sì, certamente è un'incognita, innanzitutto è un'emergenza soprattutto sanitaria, umanitaria, una grande sfida scientifica, ma certo sarà anche un fenomeno con conseguenze economiche. Oggi è molto difficile misurarle, ma le abbiamo inserite nelle nostre previsioni invernali come uno dei principali rischi, forse il principale rischio al ribasso di queste previsioni. Grazie a Beda Romano. Dunque Gentiloni, l'avete sentito direttamente dalla sua voce, ribadisce una evidenza sull'elemento, sul fattore di complessità aggiuntivo rappresentato dall'epidemia del coronavirus. Naturalmente tutto questo che si stratifica su delle realtà preesistenti, su delle difficoltà che riguardano l'Italia in particolare, e anche sull'incertezza che proprio la cronaca di questi giorni ci racconta per quanto riguarda l'equilibrio all'interno della maggioranza di governo. L'intelligenza artificiale, dunque, come vi abbiamo anticipato, l'UE non è ancora in modalità automatica. Che cosa vuol dire? Che l'UE è ancora al centro di un dibattito su come gestire questo straordinario sviluppo tecnologico. Guida automatica è un esempio, forse uno dei più suggestivi, ma gli strumenti di traduzione online, i suggerimenti automatici, insomma, l'intelligenza artificiale è ben presente nelle nostre vite. E i legislatori europei però hanno la forte sensazione, ce l'abbiamo tutti noi, che non ci sia ancora un punto di equilibrio tra innovazione e protezione dei valori europei. Allora, con il lavoro curato da Sophie Petitjean dell'agenzia Euronet Plus, sentiamo alcuni punti di vista. Il primo è quello di Hugues Bersigny, professore all'Université Libre de Bruxelles, co-direttore del laboratorio di intelligenza artificiale Iridia. Spiega come l'abilità di imitare il cervello umano sia drasticamente cresciuta nell'intelligenza artificiale grazie alla quantità enorme di dati a disposizione. Avance très fort, c'est la capacité de brasser, de manipuler, de maîtriser. Quello in cui siamo molto avanti è la capacità di elaborare, gestire, controllare una quantità di informazioni davvero imponente. Abbiamo anche computer molto potenti. In 20 o 30 anni la tecnologia dell'informazione ha seguito una legge, la cosiddetta legge Moore, secondo la quale quando si parla di capacità di archiviazione o di velocità di elaborazione, beh, in quel campo le prestazioni si duplicano ogni giorno. Capacità di stoccaggio, rapidità di trattamento. Si duplicano ogni giorno, impressionante. Bersini precisa che lo sviluppo dei robot non si è verificato con la stessa velocità per il permanere di diversi misteri sul funzionamento dei corpi umani. Insomma, per fortuna c'è ancora un'area oscura in questo caso e misteriosa nel nostro stesso corpo, nella nostra testa. L'Unione Europea ha comunque il problema di regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Le questioni in ballo sono tante: evitare la discriminazione, assicurare le protezioni dei dati, proprio questa settimana multe a pioggia dei grandi gestori dei dati, prevenire le invasioni della privacy, ottemperare a norme di sicurezza. Molti annunci di lavoro su Facebook sono stati programmati per non tenere in considerazione candidature femminili. Questo evidentemente è un bel problema. Cecilia Bonnefeld-Dahl, direttrice di Digital Europe, una delle lobby che rappresenta Facebook a Bruxelles, lei crede che questi rischi debbano essere definiti insieme all'industria. Siamo aperti a esaminare tutti i tipi di problemi, quello della salute, quello dei trasporti, quello dei servizi online. Ma naturalmente ci deve essere una collaborazione tra l'industria, tra la Commissione e non da ultimo tra i governi, per discutere esattamente quali sono le aree ad alto rischio. Come ho detto, non siamo contrari alla regolamentazione, dobbiamo solo assicurarci che sia ragionevole e che serva per davvero e non sia già normato. Cecilia Bonnefeld-Dahl dunque spiega che al momento l'industria sta testando 7 requisiti chiave messi a punto dal gruppo di esperti europei. C'è un aspetto che è particolarmente attuale, controverso, ben presente e utilizzato direi dalla maggior parte di noi, che è quello del riconoscimento facciale. Il nostro primo rapporto spesso è quello col telefono, non so voi, io sono ancora all'impronta, ma insomma è questione davvero di tempo. Proprio in settimana, se avete sentito, Enrico Pagliarini ci raccontava come già l'INATE stia entrando a livello di test il riconoscimento facciale, però non obbligatorio per salire a bordo di un aereo, che da una parte è molto comodo, dall'altro solleva qualche riflessione, anzi parecchie questioni. Ovviamente c'è il macro tema della sicurezza, le nostre città sono ormai coperte di camere, telecamere, appunto strumenti di registrazione e sicurezza. La gestione di questi dati è questione molto complessa. Sentiamo Diego Naranjo, capo di EDRI, che è il European Digital Rights Network, quindi si occupa di diritti. So in the first one was a bit more. Il primo documento era un po' più netto contro il riconoscimento facciale. Poi abbiamo visto un cambiamento tra i due documenti. Posso immaginare che, come in molti casi sui nostri fascicoli qui a Bruxelles, alcune aziende private abbiano spinto verso un linguaggio più sfumato, con la motivazione di preservare quella che chiamano innovazione, ma che in sostanza si traduce in alcuni casi in qualche profitto privato o in qualche tecnologia che stanno sviluppando e che per questo vogliono tutelare. And that's why they want to push for them. Secondo appunto questa organizzazione, la European Digital Rights Network, sono 9 i paesi che stanno facendo dei test sul riconoscimento dei volti, riconoscimento facciale, e che condivideranno presto le informazioni. Sono Slovenia, Germania, Regno Unito appena uscito, The Netherlands, quindi l'Olanda e i Paesi Bassi, Grecia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e la Repubblica Ceca. Uno dei casi che conosciamo meglio è il caso della Francia, che lo ha utilizzato in almeno 2 città. Abbiamo ritenuto che questa tecnologia presentasse un serio rischio di arrivare a realizzare una sorta di sorveglianza di massa, sapere dove si trova ogni singolo cittadino o con chi si incontra. Tutto questo si configura come un rischio per la libertà di espressione, per la libertà di riunione e dimostrazione. De reunión y manifestación. Per concludere, la posizione, diciamo, del Parlamento attraverso una rappresentante, ovviamente Alexandra Gies dei Verdi tedeschi, appunto, cosa ne pensa il Parlamento europeo di questa tecnologia? Lo sentiamo. Well, I think we need hard legislation in the European Union on artificial intelligence. Penso che nell'Unione Europea ci serva una legislazione rigida sull'intelligenza artificiale e ho iniziato a presentare una risoluzione in seno al comitato IMCO, il comitato di protezione del mercato interno e dei consumatori, per garantire la protezione dei consumatori nel contesto dell'intelligenza artificiale. Penso che in Europa dobbiamo fare una scelta chiara, perché spesso si sente dire che abbiamo già perso la corsa con gli Stati Uniti, con la Cina. Ma la vera domanda è: dove stiamo andando? Dove porta questa sfida? Vogliamo davvero arrivare a un punto dove le grandi aziende avranno un potere illimitato? O vogliamo andare in uno stato di sorveglianza come in Cina? Credo di no. E credo che abbia proprio ragione Alexandra Gies, credo che potrete condividere il suo punto. Grande potere, grande responsabilità, mi rendo conto che è la citazione di un supereroe, ma la questione dell'intelligenza artificiale ci porta anche a questo. Adesso aggiornamenti per Chi in Viaggio e poi torniamo per affrontare un altro tema, direi altrettanto delicato. Europa, Europa. Qualunque governo eletto democraticamente, come quello polacco o come quello francese, ha il diritto di votare la riforma della giustizia o del lavoro che crede. Poi decidono i cittadini di quel paese, non l'Europa. Questa frase, giovedì scorso, quindi due giorni fa, è stata pronunciata dal leader della Lega Matteo Salvini, il tutto nell'incontro con la stampa estera, rispondendo a una domanda sulle riforme della giustizia del governo polacco. Sarà Macron, ha poi concluso Salvini, ad essere giudicato per la sua riforma delle pensioni, ma insomma sappiamo che appunto tra governo polacco attuale di diritti e giustizia e quello alla presidenza francese, Salvini ha esplicitato le sue preferenze. Ora, questa frase ci fa riflettere su una considerazione che riguarda il cosiddetto rule of law. Spesso noi sentiamo parlare di violazione del rule of law da parte della Polonia e ci interroghiamo sul fatto se davvero, come dice Matteo Salvini, alla fine, forte del voto popolare, un governo non possa fare, per semplicità, quello che gli pare e quindi cambiare delle regole. Ora, è chiaro che nella dinamica tra Varsavia e Bruxelles c'è un impegno, ci sono gli impegni che vengono presi all'interno dell'Unione Europea ed è evidente che quanto accade in questa dinamica piuttosto tesa è legata a quelle che sono le idee generali e la cultura europea sulla distribuzione dei poteri, sul ruolo della giustizia, sul ruolo dell'esecutivo. Tutto questo per ragionarci. Abbiamo chiesto aiuto a uno specialista, Roberto Castaldi, direttore delle ricerche del Centro Studi Formazione, Comunicazione e Progettazione sull'Unione Europea della Scuola Sant'Anna di Pisa. A lui chiediamo innanzitutto che cos'è questa rule of law, di che cosa si tratta esattamente. Parliamo del rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e tra questi vi è anche la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, da cui dipende un equo processo per tutti i cittadini, per esempio. In che modo allora la Polonia, e naturalmente quando parliamo di Polonia parliamo di un governo a guida diritto e giustizia, viola questi principi? Il governo polacco ha di fatto abolito l'indipendenza della magistratura attraverso tutta una serie di misure che sono state considerate incostituzionali dalla Corte Suprema polacca e contrarie al diritto dell'Unione e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché sanzionate dal Consiglio d'Europa. In sostanza, prima ha modificato illegalmente la composizione del Tribunale Costituzionale, dal momento che il presidente Duda ha rifiutato la presa di servizio di tre giudici che erano già stati nominati nominati e ne ha nominato tre diversi, contro il parere dello stesso Tribunale Costituzionale che indicava che questa era una procedura incostituzionale. Dopodiché ha aumentato il numero dei componenti e modificato la procedura di nomina del Tribunale Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura polacca e creato una nuova Camera Disciplinare di nomina governativa. Questo ha portato il CSM polacco a venire espulso dall'Associazione dei Consigli Superiori della Magistratura Europei perché non più indipendente. Quindi una riforma ha imposto la nomina governativa di tutti i presidenti di tribunale in Polonia e infine ha cercato di modificare le procedure di nomina dei giudici della Corte Suprema, anche eliminando quelli esistenti attraverso il prepensionamento. Infine l'ultima legge vieta ai giudici di esprimere le proprie opinioni e anche di chiedere l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rispetto alle riforme governative, sebbene sia un dovere dei giudici nazionali, qualora si trovino di fronte a una norma nazionale che contrasti col diritto dell'Unione, riferire la questione alla Corte di Giustizia. E proprio la scorsa settimana un giudice è stato condannato dalla Camera Disciplinare per aver dato esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione, che però sono vincolanti e direttamente applicabili, quindi è dovere dei giudici nazionali applicarle. Questo giudice si è trovato decurtato del 40% dello stipendio ed è stato messo, diciamo, da parte, non può giudicarli, sono state tolte le cause ed è stato sanzionato per aver rispettato la legge. Ora, tutte queste norme che sono state fatte in questi ultimi anni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema polacca e contrarie ai principi fondamentali dell'Unione della Corte di Giustizia, quindi non dovrebbero essere applicate, sia da un punto di vista della normativa nazionale polacca che da un punto di vista della normativa europea. Ecco, ricordiamolo, lo scontro è sì, e qui parliamo oggi soprattutto di quello appunto tra governo di Varsavia in questa fase storica e l'Unione Europea, ma come avete sentito è anche molto interno. Professore, come ha reagito Varsavia alle pressioni europee? Perché appunto l'Europa non è stata zitta di fronte a questa sequenza di iniziative. No, fondamentalmente il governo polacco ha fatto finta di nulla ed è andato avanti, ignorando le raccomandazioni della Commissione europea che a più riprese ha fatto delle proposte su come modificare quelle leggi in maniera da renderle compatibili col diritto europeo e i principi fondamentali dello Stato di diritto. Dall'altro, appunto, ignorando le sentenze sia delle proprie corti interne, la prima del Tribunale Costituzionale, poi tutte le sentenze successive del Tribunale Costituzionale, dopo che ne aveva cambiato la composizione, sono state considerate illegittime dalla Corte Suprema perché la composizione del Tribunale Costituzionale è stata modificata in maniera incostituzionale e anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione. Quindi per adesso siamo in una situazione di rottura dell'ordinamento giuridico europeo, perché le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti, ma il governo polacco, che ha l'obbligo di farle applicare, non le sta rispettando, così come non sta rispettando le sentenze della Corte Suprema. E quindi c'è una situazione di rottura dell'ordine giuridico europeo, è per questo che anche il Parlamento europeo, che teoricamente non ha delle competenze specifiche, sta dedicando anche ieri una sessione plenaria alla discussione di questa situazione. Ecco professore, rottura ma di fatto stallo, oppure perché l'Europa non interviene in maniera più ferma? Quali strumenti, perché li ha di fatto, può utilizzare? C'è una certa reticenza a farlo? L'Europa è schizofrenica, nel senso che l'Unione Europea ha delle istituzioni sovranazionali e delle istituzioni intergovernative. Le istituzioni sovranazionali hanno fatto tutto quello che potevano, la Corte di Giustizia ha emesso le sentenze, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione, il Parlamento ha invitato il Consiglio ad agire. Il problema è che le eventuali sanzioni vanno decise dal Consiglio, cioè dai governi nazionali, dove vediamo il principio che cane non mangia cane, cioè hanno discusso della questione varie volte ma non hanno mai preso decisioni, anche per un limite istituzionale, serve l'unanimità degli altri paesi. Ora la Polonia ha dichiarato che metterà il veto contro le sanzioni all'Ungheria e l'Ungheria che metterà il veto contro le sanzioni alla Polonia, quindi il Consiglio continua a discutere ma non arriva a una decisione perché sa che se viene messo al voto comunque non passano le sanzioni perché la Polonia difende l'Ungheria e viceversa. Si blocca. Peraltro, ecco, anche però, l'Italia, ecco, quando col professore, governo precedente si era impegnata a bloccare eventuali sanzioni. Ecco, volevo venire proprio su questo punto. Il veto incrociato difensivo Polonia-Ungheria toglie parecchie castagne, come si dice, dal fuoco di altri stati, perché è una procedura impegnativa e la sensazione appunto è che quando si arrivi a livello politico è ognuno per sé. Ma questo vale a livello intergovernativo, perché appunto il Parlamento è riuscito ad approvare con larghissima maggioranza una mozione che appunto chiede alla Polonia di rispettare lo Stato di diritto e al Consiglio. Perché ragiona a maggioranza. Certo, e ci sono due proposte normative fatte dalla Commissione adesso, una per creare un sistema più forte, stabile e continuo di monitoraggio del rispetto allo Stato di diritto e togliendo l'unanimità poi delle sanzioni, e delle nuove norme per poter bloccare l'erogazione di fondi europei ai paesi che non rispettano lo Stato di diritto, che sarebbero degli strumenti molto più efficaci di quelli attuali. Tra l'altro c'è anche un'iniziativa dei cittadini europei, quindi un'azione volta a raccogliere 1 milione di firme per poter creare questi strumenti e agire a difesa dei diritti dei cittadini, si chiama For My Rights, il sito è www.formyrights.eu, che appunto mira a creare degli strumenti più efficaci. D'altro canto il problema che abbiamo oggi in Europa è che l'estrema destra nazionalista ha delle chiare pulsioni autoritarie, sta demolendo lo Stato di diritto dove va il potere. L'espressione democrazia illiberale coniata da Orban serve solo a nascondere un regime autoritario. Se noi pensiamo che in Ungheria un'università è stata costretta a lasciare il paese, a spostarsi dall'Ungheria in Austria, l'assenza di European University, non si era mai visto un caso in cui un'università, un'istituzione culturale pluralista, necessariamente aperta, è stata costretta a abbandonare un paese per le pressioni politiche di un governo. Quindi è chiaro che i principi fondamentali della democrazia liberale, dello Stato di diritto in Ungheria e in Polonia stanno venendo meno. Grazie a Roberto Castaldi, lo ricordo, direttore del Centro Studi Formazione, Comunicazione e Progettazione sull'Unione Europea e la Global Governance, che è uno spin-off della Scuola Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere stato con noi. Sicuramente la questione, come dire, continuerà a fare parte dei rapporti, delle dinamiche di forza di un'Unione Europea che, ricordiamolo, con l'uscita del Regno Unito è ancora più forte nella sua pulsione dell'Europa centro-orientale, quindi è chiaro che la Polonia dovrà svolgere un ruolo ancora più importante nel pianificare, nel programmare il futuro dell'istituzione. Staremo a vedere. Per adesso GR24, da parte mia, da parte di Alessandro Schirano, un saluto, ci sentiamo la prossima settimana.